Gesti di servizio comunque è in realtà un linguaggio, anche questo è piuttosto comune, no? Nel senso che adesso i tempi sono ovviamente cambiati, non c'è più lo stereotipo dell'uomo che arriva e in buona sostanza coordina o comunque si aspetta una serie di servizi da parte della moglie, ma un uomo che collabora. Prima dell'avvento della televisione valevano i consigli degli anziani che dicevano appunto che l'uomo doveva essere servito. Grazie a Dio questo storicamente non è più così. Non c'è più lo stereotipo appunto di questo soggetto che era appunto l'uomo di una volta, ma oggi si è più o meno intercambiabili, anche se poi è una parolona grossa, la donna fa molto più dell'uomo, però la donna può sentirsi veramente amata e quindi considerata se lui per esempio l'aiuta a svolgere una serie di compiti domestici, no? Così come lui può sentirsi amato se per esempio tornando a casa ci sono una serie di cose che sono per esempio un po' più ordinate o comunque agibili o situazioni comunque che riguardano il ménage familiare domestico. Si parla in questo caso proprio di cose concrete, fatti proprio operativi, insomma, incarichi, questioni legate un po' all'ambiente familiare, alla lavastoviglie, alla lavatrice, l'erba nel giardino e via discorrendo. Gesù ci dà un grandissimo insegnamento in questo perché voi sapete che in quell'epoca le strade erano polverose e si girava con i sandali, tanto che le persone si sporcavano i piedi e quando si entrava in casa di qualcuno, specialmente se era una persona che aveva magari delle possibilità economiche, aveva anche uno schiavo dietro l'uscio di casa che lavava i piedi alle persone che entravano perché potessero appunto poi non sporcare l'interno dell'abitazione. Gesù lava i piedi ai 12 perché appunto in questo caso bisogna mettersi al servizio, no? Delle varie cose di casa e questo tradotto significa che poi l'uomo non può lamentarsi se per esempio vede che la moglie ha un'attenzione maggiore nei confronti dei figli, perché è probabilmente più dedicata, cioè più al servizio anche degli altri. Tutto sommato questo significa che gli altri ti attribuiscono anche maggiore stima. Se l'uomo dice, beh, ma io arrivo, non mi si fila mai nessuno. È perché in realtà noi tendiamo a stare ai bordi dell'arena, ai bordi del ring, o magari a fare come si fa a pallacanestro, dai e vai, per chi ha giocato a basket, no? Cioè noi entriamo sul palcoscenico oppure nella campana del basket, vai, palla, dai e vai, poi spariamo, no? Non è che stiamo lì e affrontiamo i problemi così come fa spesso e volentieri invece nostra moglie, no? Quindi chi in realtà si dà di più ha evidentemente anche maggiore stima e gli viene riconosciuta maggiore autorità. Noi è probabile che noi uomini, tendenzialmente più delle donne, ci creiamo delle zone di comfort, no? Nel nostro lavoro, magari uno esce alle 6, però dice, vabbè, mo esco alle 7, che dici? Mi crea qualche pratichetta in più, perché dice, beh, se poi io esco prima, significa che devo ricominciare da là, e a me da là non è che proprio mi piace tanto, quindi magari tira fuori qualche appuntamento in più, dice ci vediamo alle 7:30, certo, amore c'ho un appuntamento, quanto mi dispiace, eh? E perché ovviamente queste zone di comfort sono delle situazioni, dei vizi veri e propri che poi in realtà neanche riconosciamo più, allora la famosa latitanza tra virgolette è tradotta in questo, cioè noi ci siamo talmente abituati in questo, voi sapete che le rane per cuocerle bisogna immergerle in una pentola di acqua fredda, poi piano piano l'acqua si scalda, le rane neanche se ne accorgono più tanto e rimangono cotte. Se tu le rane le metti quando l'acqua già bolle, quelle schizzano via e non ce le freghi, insomma, no? Noi tante volte ci piace stare in questa zona così, no? Che ci siamo creati, no? C'è l'esempio di quella bambina che sta vicino al papà di domenica, gli dice papà, ma che fai? Dice niente, io faccio il planning della settimana. Ah sì, e che vuol dire? Beh, mi segno sull'agenda tutte le persone che incontrerò nella prossima settimana, quasi non guardandole nemmeno in faccia, perché preso dai suoi appunti che deve mettere in Outlook, no? Nel calendario e quindi fissare i suoi appuntamenti. Ma papà, ma ci sono anch'io nella tua agenda la settimana prossima? Quindi in realtà tante volte questi punti di domanda bisogna evidentemente tradurli poi in operatività, no? E insomma, i gesti di servizio poi noi uomini non è che siamo così bravi. Una volta mia moglie se ne andò, insomma, se ne andò, nel senso che poi è tornata, grazie a Dio. Ma insomma, stette qualche giorno fuori casa e mi disse: ah, io vado via per 4-5 giorni, vado con delle amiche, insomma, eccetera. Mi raccomando, io ti lascio qui con i ragazzi, no? Tu non devi pensare, me lo prometti che non pensi, ma non devi proprio pensare. Che vuol dire? No, io te lascio tutto già fatto, ecco, questa è qui la lavagna, guarda, allora, A1 è la colazione del primo giorno, A2 è il pranzo del primo giorno, A3 è la cena del primo giorno, poi B1, B2, B3, non te puoi sbagliare, è già tutto precotto e surgelato, lo devi solo tirare fuori dal freezer, quello è il freezer, se tu non te ne eri mai accorto prima, c'è un freezer qui da noi, no? Non lo saprai probabilmente, però magari in cucina vieni poco e io te lo posso dire, questo è un freezer, vedi? Allora, tu esci da qui, prendi la scatoletta, la metti a bagnomaria e poi la scaldata, i piatti li saprei mettere a tavola e li dai insomma ai ragazzi, mi raccomando, però non pensare, cioè devi fare delle cose in maniera meccanica, ragazzi, dategli una vista a vostro padre, guardatelo, mi raccomando ragazzi, Stategli vicino e cercate di capire che cosa combina. Tu devi fare solo una cosa, non devi assolutamente pensare, e una cosa la devi fare però, dimmi che cosa devo fare, devi passare lo Swiffer, me lo prometti che passi lo Swiffer? Swiffer? Sì, e dove sta? Dell'A, dell'A 2, ma come dell'A 2? Dell'A, è sempre stato dell'A. Ah, sta dell'A. E qua ne è arrivato questo, io non l'ho visto. Quella coppia di tedeschi che sono venuti qui da noi, ma che c'entra? Che c'entra? Lo Swiffer è un panno elettrizzato, elettrico, elettromagnetizzato, cioè tu lo lanci nel pavimento e tutti gli acari del quartiere vengono e si depositano lì sopra, possibile non lo conosci, sto Swiffer? No, non l'ho mai visto. Ecco, fai questo, lo Swiffer e non il mocio, me lo prometti? Lo Swiffer e non il mocio. Il mocio no, lo Swiffer sì. E perché? Poi magari ce li mangono male. No, ma che significa? Dai, no, ho passato la cera, se mi passi il mocio è finita. Passamelo Swiffer, no? E dove sta? Dell'A, dell'A, dell'A dove? Dell'A, vabbè, sì, va, te ne vuoi andare adesso, che dici tu? Ragazzi, mi raccomando, allora lavatevi i denti 3 volte al giorno, eh? 3 volte al giorno, 26 spazzolamenti, gli canta una filastrocca addirittura, e poi gli dice le mutandine tutti i giorni, i calzini, mi raccomando ragazzi, mi raccomando, e date uno sguardo a vostro padre, sono preoccupata di lasciarlo questo, guarda che faccia, oddio, è inespressivo. Ma come, inespressivo di che? Io non vedo che te ne vai. Sì, papà, sei andata, sì, è andata via, è andata via, ragazzi, è andata via. Allora, ma quale A1, A2, B3? McDonald 1, McDonald 2, Big Burger 3, raga, e sì, tagliamo i cavi del telefono, del citofono, isolamose. Io mi voglio vedere Roma Channel tutto il giorno, cosa fanno lì a Trigoria, come si allenano, voglio sapere tutto da loro. E voi, ragazzi, PlayStation, 7 giorni, va bene? Evviva l'anarchia, sì, evviva! Allora ragazzi, e quindi ci organizziamo, mi raccomando ragazzi, i calzini, se ve cambiate i calzini di come si trovate, il settimo giorno quando arriva devono stare appoggiati al muro dritti come fossero degli sci, come di sci, seccoliti si levamo, proprio come fossero una cosa di baccalà, l'appiccicamo là. Sì papà, è vero, e le mutande uguali a pelle, ce le devono levare a corbisturi quando andiamo via. Sì, evviva, e vai papà, evviva papà. Quarto, quinto giorno, poi io ovviamente vado da là, trovo lo Swift, non c'era. Io non lo vedo. Allora, te sta qui, sei sbagliata, io non lo vedo lo Swiffer, c'era. Se non c'è lo Swiffer, io passo il mocio, tanto è uguale. Passo il mocio e viene tipo una fanghiglia, tipo Caracas, tipo una bettola dei Caracas, tutta una fanghiglia. Scivolo, sbatto la capoccia su un termosifone, viene un figozzo. Chiudo le persiane e mi rimangono le dita sotto al davanzale. Quindi ero fasciato qui, ero fasciato qui. Poi a un certo punto dico, ragazzi, allora diamo fondo alle provviste, mamma sta per tornare. Che dite? Sì papà, e che dici tu? Però che ci sarà? Spinaci? No, ma quale spinaci? Patatine fritte, ho visto nella bissette, patatine fritte. Che dici? Sì papà, andate a vedere la televisione, vediamo quando è pronto. Allora, ecco la busta, portare ad ebollizione l'olio, ebollizione, già insomma è un termine che non ho mai sentito, ebollizione, sarà una cosa grossa, tipo un alto forno, ci cioè vorrà una cosa. Un'acciaieria, mondo vado a Terni con queste, come cazzo. Vabbè, senti, io la metto su due fuochi, metto questa padella su due fuochi al massimo, ecco, e bollono, e bollono, ebollizione, vulcano. Ecco, adesso ci siamo. Taglio la busta e poi dall'alto verso il basso, da grande chef parigino, dico, signori, ecco, ci siamo quasi. Le faccio calare dall'alto, si immergono nell'olio, l'olio esce e va sulla fiamma. È un principio di incendio, brucia tutta la cappetta. Io vedo il fuoco, tiro via la pentola verso di me e l'olio bollente col fuoco tutto addosso tipo torcia umana, arriva il terzo, papà, oddio, ma che fai? Niente, mi sto a fare un tatuaggio, andate là. E quindi a un certo punto torna mia moglie e mi trovo ustionato di terzo grado, il figozzo qui, fasciato qui, dico se tu rivai via io chiedo annullamento alla Sacra Rota.